Io intanto ovviamente vi ringrazio per avermi invitato a questo dibattito e ringrazio anche gli amici e i compagni oratori che mi hanno permesso anche di ascoltare un po' le cose che loro hanno detto, perché in effetti per me non credente questo dibattito è sempre difficile. Ne abbiamo fatti tanti nel corso di questi anni e nel passato, ma sicuramente ha sempre delle difficoltà, almeno per me. Perché io in via di principio, lo voglio dire in partenza, non ho mai capito la necessità del dialogo tra credenti e non credenti. E tantomeno mi convinceva l'idea del dialogo tra credenti e comunisti, quasi che sia per definizione incompatibile il rapporto. Qui si dimostra il contrario, ma sicuramente questo era un elemento. Ma anche perché, oltre alla questione su cui tornerò, sentivo che non c'era questa separatezza nella vita reale, nella pratica quotidiana, nei momenti, diciamo, di presenza nelle fabbriche o nella società. C'era una separatezza, e questa io la trovavo collocata, permettetemi la schematizzazione, nel campo dell'ideologia, cioè nel modo di prefigurare la propria esistenza nella realtà e in rapporto con il futuro che si disegnava. In noi comunisti forse c'era il limite di pensare che l'uomo si libera solo in una nuova società e di conseguenza dare il senso di un'estremo, esagerata concezione collettivista. Dall'altra parte c'era la contraddizione che l'uomo era già liberato, in quanto pur vivendo in questa società aveva in sé un elemento della liberazione che era la fede. C'era una separatezza nella risposta civile. E questo era sicuramente uno dei nodi politici più forti, cioè il collocarsi per la grande parte in partiti e organizzazioni diverse. Questa, diciamo, separatezza che portava al discorso del dialogo ha trovato dei momenti di confronto. Sono il famoso, appunto, articolo 7, cioè nella politica alta, per così per capirci, oppure nel cercare un rapporto tra istituzioni, che anche questo era l'articolo 7, cioè tra Stato e Chiesa, tra partiti che erano un sé Stato, comunque tendono a rappresentarlo, e la Chiesa, nel movimento sociale, cioè nelle diverse realtà di espressione che siano determinate. E questo a seconda anche dei periodi, degli anni, che state ricordate il dissenso di una certa fase, si potevano ricordare altri elementi importanti, secondo me, di Togliatti è stato una di queste esperienze. Io tra queste ci metto anche il tentativo di compromesso storico di Berlinguer, non nella sua traduzione politica, l'astensione al governo Andreotti per capirci, ma la scelta, la strategia che animava quella proposta del compromesso storico ricercava nuove condizioni di questo rapporto. Ma credo che oggi qui forse c'è un tentativo mio, insomma, di dare un arricchimento al dibattito, anche se non sono convinto di farlo. Comunque, quello che sento oggi è che siamo di fronte a una crisi profonda di questo nostro paese, di questa nostra realtà, una crisi democratica profonda, che forse mette in crisi anche queste risposte, cioè apre un nuovo scenario. Credo che sia decisivo in qualche modo cercare questo nuovo scenario. Io ho sentito nelle parole degli oratori, insomma, anche questo tentativo nel cercare, o nel raccontare la storia più drammatica di una realtà come l'Africa, o nel cercare nel passato alcuni riferimenti, o nel classificare alcune esperienze, questo tentativo. Io vorrei sottolineare un mio punto di vista, e credo che un problema che si pone, almeno per me, nel leggere questo rapporto, questa ricerca di dialogo, questo nuovo confronto, è intanto un giudizio sulla parte, diciamo, sull'area, sulle opzioni che dovrebbero contenere questo incontro, che io chiamo di sinistra per convenzione, potremmo chiamare anche in altro modo, ma per convenzione chiamo di sinistra, perché vedo che qui c'è una crisi di questa sinistra. Di conseguenza anche il rapporto tra le diverse componenti che fanno parte, in questo caso comunisti e cattolici, o credenti e non credenti, deve collocarsi dentro questo contesto. C'è una crisi profonda. E quindi questo comporta, voglio dire, dentro questo anche una riaffermazione dei punti di vista, del modo di affrontare questa crisi. E io, che mantengo, pur essendo nel PDS, tento di definirmi, di affermare un punto di vista comunista, vorrei anche sottolineare che questo comporta una istanza radicale di analisi della società, delle contraddizioni del capitalismo, delle ingiustizie che si produce, ma anche il tentativo di trasformare questa analisi radicale in una ricerca delle condizioni per mutare la situazione, per cambiarla profondamente, quindi che diventa politica nella sostanza. Quindi in questo senso per me non si tratta di coltivare memorie o di fare accademiche discussioni su questo rapporto o addirittura sul comunismo. Io penso che il problema è quello di vedere come analisi reali, radicali, mi pare che quella che veniva fatta sull'Africa ha questa forza, poi forse tradisco il pensiero dell'oratore, ma a me è parso così, che avesse questa forza, perché mi pare dobbiamo cercare di togliere ideologia a questa analisi, anche se il caricarla di idealità diventa una sfida per tutti, insomma. E allora mi pare che in questo senso sicuramente c'è uno scenario anche nuovo che va visto. I fatti internazionali, per quello che hanno prodotto sicuramente all'est, per quello che ci raccontavano sull'Africa poco fa, per quello che avviene in altre parti del mondo, per la crisi della sinistra nel mondo occidentale, che comunque è una profonda crisi. Ecco, mi pare che quindi, oltre a questi elementi, c'è un'analisi dei rapporti nell'ambito della politica di produzione capitalistica che deve essere ripensata. Non è più sufficiente, secondo me, lo strumento Marx, pur essendo il punto di partenza, almeno per me, ma deve essere modificata, perché qui è profondamente modificata la situazione. Così che mi pare anche che le contraddizioni che si manifestano nelle strutture sociali, nelle superstrutture, se volete, sono diverse da quelle che erano un po' disegnate, ma anche quelle che avevano motivato i nostri rapporti, il nostro dialogo solo qualche anno fa. Se penso alle piccolate di Cossiga, a quello che sta venendo fuori, sicuramente si è mutata la stessa idea di Stato, comunque il suo modo di essere lo Stato. Quindi c'è un elemento, secondo me, forte, e dentro questo, dicevo, ci sono domande radicali a quali bisogna cercare di dare risposte. A me ha colpito, non so se a voi è capitato di leggerlo, comunque un'affermazione che faceva Ruffolo all'introduzione di un convegno della sinistra socialista, quando diceva, e lui usava questo termine che può essere contestato ma è suo, è crollato il polo comunista, quello realizzato ovviamente, ma si è esaurita anche la spinta propulsiva socialdemocratico di quello che è nato e si è contrapposto al polo comunista. Lui denunciava un rattrappimento, usavo queste parole, me le sono sottosegnate, politico ed etico della sinistra. Questo rattrappimento, secondo me, lo si può anche vedere nella frantumazione della sinistra, nella sua difficoltà di trovare punti comuni, ma questo è un altro discorso. Ecco, io mi chiedo, per esempio, se questo giudizio, se questa analisi, ovviamente sommaria, fatta molto affrettatamente, possa essere l'altra faccia di un ragionamento sulla realtà dei credenti, in particolare dei cattolici in Italia, che è la realtà più consistente, ovviamente, non perché esista solo questa. E in che modo il giudizio che si dà sul palazzo Giovanni Paolo II non venga ridotto quella schematizzazione del conservazionario, conservatore, insomma, a me pare che è più controversa, più complessa questa esperienza, ecco. Però quello che mi interessava sottolineare è che una domanda mi viene alla mente, insomma, visto che nell'Europa ci sono diverse dominanze religiose nei singoli paesi, pur essendo presenti, voglio dire, tutte le tendenze, ovviamente, però in ogni paese, in ognuna di queste realtà, la sinistra nel suo complesso non riesce a esprimere una maggioranza di consenso E quindi questo è un problema che mi pongo. Cioè, se c'è una peculiarità italiana in questa difficoltà e quindi c'è una ragione nel rapporto con la Chiesa e con i cattolici italiani, o se invece c'è qualcosa di più profondo. Questo potrebbe essere ovviamente un elemento forse anche mal posto, ma sicuramente che io mi sento di porre in questa discussione. E se sottodico che c'è una peculiarità italiana, facciamo questa ipotesi, questa peculiarità è, diciamo meglio, ha origine nella fede cattolica e quindi nel modo come la Chiesa si è atteggiata e come i cattolici hanno vissuto questa fede, o forse è dovuta anch'essa da quanto è avvenuto dopo la lotta di liberazione, dalla crescita di un partito democratico cristiano che si è basato sulla Chiesa come prima fase almeno di costruzione, che poi ha via via vissuto anche contraddizioni laceranti a questo punto, ma che ha mantenuto comunque questa tendenza. Abbiamo parlato del partito dei cattolici, anche se forse non era corretto questa affermazione. Beh, oggi, se questo è vero, possiamo dire che qualcosa di grosso sta avvenendo, perché è proprio appunto il modificarsi della realtà che ha determinato il post-guerra apre una crisi più complessiva, che non è stata soltanto del partito comunista, forse può essere una crisi di più realtà storiche, di partiti che sono costruiti in quella fase storica. Mi pare, per esempio, è stato citato il voto a Brescia, qualche elemento deve pur darci anche delle riflessioni su questo campo, perché Brescia è una realtà di profondo cattolicesimo, almeno quello che noi tradizionalmente abbiamo detto di profondo cattolicesimo, forse con un'analisi superficiale, ma insomma la realtà è così. Beh, non c'è solo la rottura e il non voto alla DC, c'è il fatto che il non voto alla DC non si trasferisse alle forze della sinistra, perché comunque le forze della sinistra nel loro complesso non hanno avuto un grande successo in quella realtà, ma invece c'è il voto a un partito, la Lega, che alimenta altri scenari, altre prospettive. C'è una solidarietà corporativa che emerge, quindi forse qui c'è un elemento che va analizzato. C'è una solidarietà corporativa che nasce sull'affermazione del lavoro come elemento di autoaffermazione, non dico di liberazione, di emancipazione, di autoaffermazione, che in qualche modo c'ha qualche riscontro nel centesimo anno sul modo come viene presentato il lavoro, almeno per come io l'ho letta, da non credente, ovviamente da uno che l'ha avuto un approccio puramente conoscitivo a quelle parole. C'è quindi un elemento di benessere legato a una situazione di autodifesa, se volete. Ma in questo c'è anche un po' la logica dei confini stretti. Questo mi pare l'altro elemento, il localismo, ma io preferisco dire dei confini stretti, cioè di una visione, anche per l'autodifesa, limitata alla realtà in cui si opera. Come reazione a elementi di novità. E qui c'è l'altro elemento che secondo me apre uno scenario nuovo in Italia, poi forse mi sbaglio. Ma è per esempio il fatto che oltre alla religione cattolica che è presente in forma, voglio dire, appunto da concordato, con tutto quel che significa, ci sono le altre religioni, la Baffina rappresenta una, ma ce ne sono tante altre, però ci sono anche altre cose, cioè nuove religioni che vengono in Italia tramite la presenza di nuove razze, cioè di altri modi di vedere, di concepire la fede e di pensarsi e di proporsi. E qui c'è un problema e si può aprire una contraddizione abbastanza delicata, perché sicuramente, voglio sottolinearlo come ragione, ci sono in queste religioni elementi che possono contraddire con una visione laica del rapporto Stato e Chiesa. Io come non credente questa cosa me la pongo, non in termini di rifiuto, ma in termini di discussione su come possono coesistere queste cose, è in pari tempo come rifiuto e come lotta contro chi tende, come dire, ad alzare barriere contro mondi diversi. Direi che c'è un po', come dire, anche però dentro questo l'incontro di quello che il nostro compagno amico che ha fatto l'introduzione diceva, i mondi italiani diversi, insomma a me pare che ci sia, come dire, anche un tentativo di mondi italiani diversi di unirsi, credenti e non credenti dentro le leghe, per esempio per me è questo, contro nuovi mondi che entrano in Italia o che comunque stanno emergendo sullo scenario mondiale anche per le loro contraddizioni drammatiche che stanno vivendo loro e il loro paese. E qui mi pare che si aprono, e questo è un punto secondo me, contraddizioni nuove dentro il tessuto sociale, culturale e politico del nostro paese, che pure è già fortemente, fortemente scosso. Ecco, io sarebbe già passato i 10 minuti che avevo chiesto di assegnarmi, quindi cerco di essere molto rapido. Qui mi pare che ci sia un elemento su cui ragionare, e faccio un salto logico, ma spero di essere capito. Io non dico che stiamo delineando queste contraddizioni e queste vicende, insomma, alla crisi del capitalismo, mi pare che questa cosa abbia già dimostrato che non può essere riprodotta così, non è la crisi del capitalismo, ma è forse una crisi del capitalismo, cioè una delle tante alle quali il capitalismo ha saputo a volte dare risposte molto avanzate, a volte ha dato risposte molto arretrate, a volte ha dato risposte di sviluppo delle forze produttive, quindi anche della democrazia, poi torno su questo concetto, a volte ha dato risposte arretrate di limitazione della democrazia. Oggi mi pare che in Italia la crisi sociale ponga il problema dell'autoritarismo nella decisione, che può essere un elemento di risposta arretrata alla crisi che pure il capitalismo vive. E quindi dentro questo, se messi, potrebbe appunto aprire una discussione vera tra le forze a sinistra, credenti e non credenti, uso questo termine per capirci, che affronta questo nodo, cioè il rapporto tra la crisi di questa società, di questo capitalismo, e le risposte che vengono tentate. Perché a me pare, che adesso lascio stare la citazione della centesimo annus, ma che ci sono comunque dentro, tra le tante cose, anche elementi che possono dire che c'è questa riflessione anche tra i credenti, ma la salto per non essere lungo. Io quello che voglio dire è che di fronte a questi fatti non so dire se l'uomo è perdente, come un pochino ho sentito. Io sento che oggi noi non riusciamo a parlare all'uomo che vive queste contraddizioni, alla persona più esattamente che vive queste contraddizioni. Sento che la sinistra nel suo complesso, poi qualcuno lo farà meglio, qualcuno lo farà peggio, ma non riesce a parlare all'uomo che vive queste crisi e queste contraddizioni, alla persona più esattamente. E non so neanche dire se siamo di fronte a una persona che sia omologa. Io non direi così, ecco, se devo dire quello che sento. Sento di più che siamo di fronte a una forma brutale di estraniazione in qualche modo, che è un altro elemento dell'alienazione forse dentro il processo produttivo, che si ripercuote nelle forme sopra produttive, sociali. E allora sono convinto di questo, mi sento dirlo con molta onestà e tranquillità, non è il capitalismo secondo me che può rispondere a questa crisi, al bisogno di nuova umanità che emerge da questa contraddizione. Penso che la battuta di De Giovanni si possa ribaltare, almeno io la ribalto perché non la condivido, e dico che questa democrazia è propria di questo capitalismo. Quindi io dico che certo è possibile un'altra democrazia in un'altra formazione sociale, però qui si apre, come dire, lo scenario più grosso, perché appunto non accettare un'omologazione, dichiararsi comunisti e di sinistra, ancora di più comunisti, voglio dire, in questa realtà vuol dire sicuramente cercare di non omologarsi, o perlomeno portare dentro una sinistra, uso sempre un termine convenzionale, forse non sufficiente oggi, la non omologazione per me è un elemento decisivo per tenere aperta questa discussione. Ma la questione è se non possiamo pensare a un crollo del capitalismo come elemento in sé possibile oggi, o perlomeno non prevedibile. Se la crisi, se una crisi del capitalismo può sfociare anche in soluzioni di arretramento e non di sviluppo delle forze produttive, della democrazia che questo comporta, perché a me pare questo, cioè c'è il tentativo di ridurre la democrazia per ridurre il significato delle forze, dello sviluppo delle forze produttive, quindi le contraddizioni interne, che oggi sono molto delicate da governare. Il problema che si pone è come costruiamo un'altra ipotesi di formazione sociale, un'altra ipotesi di democrazia, perché sicuramente quanto è avvenuto nei paesi che si autodefinivano socialisti, che comunque noi l'abbiamo ritenuto per lungo tempo lo fossero, penso che nessuno di noi possa negare questo, io perlomeno non mi sento di negarlo, che quello era un elemento comunque di novità dentro lo scenario mondiale, che è finito in un modo sicuramente drammatico e in certi aspetti negatorio dei stessi principi da cui era partito, ma credo che questo possa forse far crescere un'altra lettura della realtà, cioè che in fondo la risposta data dentro la società capitalistica ai problemi delle persone umane, ai problemi sociali del governo, non è quella più elevata, non è l'ultima formazione sociale possibile, proprio perché quella crisi evidenzia il limite di questa formazione sociale, secondo me. Cioè in fondo non sono venute a cadere da noi con la crisi e col crollo di quell'esperienza le diseguaglianze, le ingiustizie, l'alienazione, il dominio di poche persone sul resto, non sono venute, sono tutte lì, anche se si esprimono in modo diverso. Ecco, mi pare che forse il problema che potrebbe aiutarci in questo confronto, in questo dibattito, che ha una peculiarità nel rapporto tra credenti e non credenti, ma che è un dibattito della realtà più ampia della sinistra, secondo me qui c'è, come dire, la riaffermazione che io facevo all'inizio, cioè che proprio il problema del dialogo superato, c'è il problema della costruzione di un'ipotesi, c'è il problema cioè di vedere come nella distinzione dei ruoli e quindi nella massima libertà ideale di ciascuno, di fede o di non fede, perché penso che anche chi non crede possa avere, ha degli ideali, ma che non per questo devono diventare totalizzanti, come invece purtroppo in qualche ipotesi si è cercato di fare, così come io rifiuto l'idea totalizzante di certe formazioni religiose, di certi settori, voglio dire, credenti, credo che anche questo sia elemento da combattere, però in questa, attenzione, in questa riaffermazione della unicità o comunque della libertà di scelta di espressione ideale, sia possibile costruire un'ipotesi concreta di trasformazione. Mi pare cioè che lo scenario nuovo che si pone è un po' questo, e questo parte anche dal presupposto del rimescolamento delle carte dei partiti nati dopo la guerra di liberazione. In fondo quella divisione, quel modo di formarsi delle formazioni politiche forse non coglieva allora, ma sicuramente non coglie oggi le contraddizioni che sono dentro ogni formazione politica e la possibilità di riunire invece attorno a programmi, a valori e a idealità le forze che vogliono cambiare. Mi pare che lo scenario che si apre è questo. In fondo è la necessità di ripensare, ricostruire più nettamente, più chiaramente le formazioni rappresentanti di questo processo. E questo mi pare il momento che noi viviamo. E dentro questo io credo che il confronto che vada a riprendere i non credenti debba avere questo spessore, e qui si misura anche la fecondità di questo rapporto. Bene, ringraziamo. Sono un prete gesuita, faccio cioè parte di una comunità religiosa, e per molti anni ho lavorato nel campo dell'educazione degli adulti, e allora il mio intervento si pone un po' sul filo di quelli che mi hanno preceduto, di cui condivido molte riflessioni, però sono un po' preoccupato, forse per deformazione professionale, a dare qualche elemento all'interno di questo discorso che si è fatto, un po' per il gusto dell'alfabeto, proprio perché quando ho lavorato, soprattutto nelle 150 ore, c'era sempre la preoccupazione di chiarire i termini. E il gusto dell'alfabeto mi fa chiedere, ma è proprio possibile porre sullo stesso metro, cioè come due esperienze così identiche nelle loro origini, nelle loro finalità, quella che noi definiamo genericamente l'essere cristiani e l'essere comunisti? Ecco, io proverei a dire che c'è un nucleo centrale che certamente può accomunare, ma ci sono come dei poli diversi che forse va tenuto presente e rispettati, perché non si cada poi in semplificazioni. Mi spiego, e mi spiego soprattutto poi facendo una piccola riflessione lo stesso interna a quello che per esempio vuol dire il messaggio evangelico in rapporto ai bisogni della gente, ai bisogni dell'uomo. Ecco, dove nasce l'origine comune, diciamo, delle due esperienze? Io credo che nasca dalla contraddizione profonda che viviamo all'interno di una storia dove l'uomo viene mortificato continuamente per responsabilità di altri uomini, o a livello individuale o a livello di classe, di società. Ecco, all'interno di questa storia c'è stata, se vogliamo, una ispirazione che è partita sul piano evangelico e riconosciamo sul piano evangelico come storicamente si rivela sul piano religioso, e dall'altra parte vediamo come si forma all'interno della storia una proposta, una denuncia che poi ha una sua concretizzazione politica. Ecco, io credo che dove può sbagliare l'ispirazione evangelica e dove può sbagliare l'ispirazione, diciamo, politica. L'ispirazione evangelica può sbagliare quando, partendo come è partito per esempio Gesù quando si trovava di fronte a una massa di gente che aveva fame, dice, non hanno da mangiare, diceva, no? Avete qualche cosa, un po' di pane, un po' di pesce, lo moltiplica, lo dà a tutti. E tutti sono in qualche modo soddisfatti, ma teniamo bene che avanza molto, quasi per dirci che in fondo le risorse ci sono sempre e basta che le sappiamo ben distribuire. Questo nel Vangelo di Marco viene ripetuto due volte, una volta avanzano 12 cesti, una volta 7 cesti, comunque avanza sempre. La seconda volta che il Vangelo riporta questa frase, ci sono i farisei che stanno sempre a far la guardia per cogliere in fallo Gesù, che dicono, cioè, ci dai un segno, perché loro vogliono in qualche modo essere garantiti che questo personaggio non è quello che loro aspettavano, che in qualche modo avrebbe messo in crisi tutto il loro sistema di potere, tutta la loro credenza, tutta la loro prassi di vita. E Gesù dice no, il segno non ve lo do, perché se avete occhi da vedere e orecchie da intendere, questi segni li avete già ricevuti. E il segno, per esempio, della moltiplicazione dei pani era un segno evidente. Che cosa ha funzionato nei farisei perché non capissero il messaggio di Cristo? Io credo che è lo stesso che molti cristiani oggi non possono cogliere storicamente. Perché? Perché hanno confuso una loro ispirazione con una progettualità che diventa collocata storicamente e vuole fissare storicamente qualche cosa che invece rimane come segno profetico e segno di contraddizione che continuamente può ribaltare la storia dell'uomo. Come dire, cristiano, tu fermati a un certo punto per la tua ispirazione, dopo entra in rapporto comune con tutti gli altri uomini per quelli che sono i progetti politici. La tua specificità si ferma a un certo punto, rimane tutta la tua carica profetica per poter cogliere le contraddizioni del mondo, ma non andare al di là, perché altrimenti ti fissi e vuoi costringere anche Cristo a fissarsi in un progetto politico, quando nel progetto politico puoi trovarti insieme a tanti altri uomini. Da un punto di vista del progetto politico, noi storicamente abbiamo avuto questo fenomeno enorme che è stata la critica sociale, cioè spinta dal basso, spinta da chi aveva fame, verso un sistema che si stava radicando nella società, come era quello della rivoluzione industriale, del sistema capitalista, e che aveva trovato una forte giustificazione in una classe sociale e in un apparato, specialmente nel mondo occidentale, che poi si identificava con certe chiese che erano al potere in certe società. Ma parlo soprattutto di classi sociali che si identificavano con le chiese. A questo punto, qual è stato forse il grosso limite di questa critica? quando è diventato in qualche modo sistema statuale, nel senso di sistema politico, è stato il limite di voler accentuare il carattere di fissità e di non vivere anche in questo caso la sua spinta, se vogliamo, profetico-sociale di denuncia di un esistente. Per cui in questa fissità poi, e dovendo giocare la difesa di questa fissità, ha perso di vista veramente quello che era uno degli elementi importanti della sua ispirazione come critica sociale, che era quella di restituire all'individuo il valore, per esempio, del lavoro, il valore della sua decisione politica, di quella che era l'elemento nascente di una spinta di scelta democratica. Per così dire, dove naufraga il cristianesimo? Quando diventa ideologia politica. Dove naufraga il comunismo come ispirazione profetica di critica sociale, laddove l'egoismo umano è sempre pronto a diventare classe egemone, no? Classe che ti schiaccia, è quando diventa ideologia, ma non sul piano politico, sul piano ideale, quasi che, e questo è uno forse dei grossi elementi che ha schiacciato storicamente, no? Che ha messo in crisi, quando per esempio costringe ha difeso il capitalismo, deve pur riconoscere la profonda crisi, perché dico il capitalismo che oggi sussiste perché c'è l'80% del mondo che muore in qualche modo, oppure che soffre profondamente per la salvezza di un 20%, questo non è un sistema assolutamente giusto, non è un sistema assolutamente che riconosce l'ispirazione, per esempio, dello stesso cristianesimo. E d'altra parte è azzerata un'esperienza che in qualche modo totalizzava la proposta politica e annullava la possibilità, tra l'altro, di partecipazione, e di partecipazione all'interno di una compagine politica che potesse avere anche contributi di carattere culturale, di carattere spirituale, di carattere religioso. Quasi dire che veramente è il momento di relativizzare fino in fondo l'esperienza politica, quando questa politica vuol diventare assolutizzante, e restituire all'esercizio della politica il valore di eticità, laddove oggi più che mai sentiamo l'esigenza di restituire eticità al fare politico e all'economia, ai rapporti internazionali, al rispetto dell'individuo, perché diciamo questa eticità è quella che veramente più ha sofferto, sia nell'ambito diciamo di quelli che sono stati e che sono state le esperienze nell'ambito anche della Chiesa, no? La separazione fra proposta ideale e prassi. Io ricordo una delle frasi tipiche di Don Milani, che ai suoi ragazzi ripeteva, e la sua perpetua, la sua vecchietta che lo assisteva agli ultimi tempi, quando gli chiesi: ma mi vuoi dire qual era la frase tipica che Don Milani e tu che ricordi più volentieri Don Milani? Lui diceva alla Eda, che ora sta a Canizzano, un'ottantenne vivacissima, cioè, diceva Don Milani: che vu dite vu fate, come dire, quello che dite fate, che poi si può ribaltare, fate quello che dite. Ecco, questa esigenza di eticità profonda è quella che ancora oggi credo debba poter salvare il fare politico, e questo fare politico noi non lo possiamo salvare se lo assolutizziamo a livello ideologico, nel senso di dire una proposta economica rimane quella definitiva, una proposta di Stato rimane quella definitiva, una proposta culturale è quella definitiva. Mi sembra che anche tutti gli interventi che mi hanno preceduti sottolineino questo, per esempio, evolversi delle situazioni, questa complessità, se non altro interculturale, perché ci sono popoli che hanno tradizioni completamente diverse, hanno un punto di vista completamente diverso. Ecco, noi per poter salvare le singole realtà senza cadere nel nazionalismo, per poter articolare nella nostra società tutti i contributi che possono venire da tutte le esperienze, dobbiamo restituire alla politica l'aspetto di eticità come dimensione sempre da riscoprire e mai da tenere come definitiva. L'azzeramento, se vogliamo, della proposta cristiana politica o l'azzeramento di un totalitarismo socialista, comunista, politico può veramente essere un principio ispiratore, ma io non direi di un confronto, di una collaborazione, perché sarebbe come porre, ripeto e chiudo, il cristianesimo come proposta politica o il comunismo come proposta ideale religiosa. Ecco, credo che dobbiamo veramente, per questo che avevo l'esigenza di far dell'alfabeto, questo credo che possa essere un punto di partenza, non per un confronto, ma per un lavorare secondo le ispirazioni poi che ciascuno vive.